is 666, the number of the beast. Con le cose Non l'hanno questo, non l'hanno. Sì, va, attento, Antonio, ti scorci, gatto. Ma tu non puoi andare al bar. Ah? Non puoi andare al bar. Ah, puoi. Ah, quando balia voleva sì, che sono sezzato, un mese, 2 minuti, a Sanremo era. Magari andato a fare i bruvi, da Maria. Vai, per credi che le esistenza è tu, va di mezzo sì, oh yeah. Miglio quando entra a me. Quello di così, che avete i segreti prima andare a dire così, ha usato. Non entra. Sì, scusami, ma va al microfono, va. Al microfono di chi si ronghi in mano, no di chi siano. Già lo so. Ma poi ci ha modificato il buruchisso, questa ragazza deve alzarne più 3. Già andava, Per fare il carotti. Ma quella cosa riguarda, quella cosa famosa, che mi ha detto l'altro giorno. Guarda, lascia perdere che sono... Boh, va bene che è il periodo del festivo. Allora, rimane a Sassari, pensa a dove, ha fatto Cagliari, da che da, Cagliari, Sassari, torna a Cagliari. Ah, infatti giù, ero cercato di andare a fare ma, né a Ribussi, né a Cagliari risponde nessuno, lo santo di galla ha fatto. Allora, dimmi tu una cosa, devi fare il cogliere un macco. Ma che sono macchi? Se devi arrivare, rimani, in Sassari, per la critica, in Sassari, forse... Sotto la non si vede manco né il bottino né il corriere. Beh, agito, strano. Conto il comandano, taglia l'aeroporto di Hermas. Agito, torna. Ma che motivo? Ma infatti che mi domando il bullo, ma cosa ha fatto che tu boh, anda e torna? Aspetta, guardo se c'ho il coso di non... a chiamare là. Aspetta, lascia vedere. E beh Billy, su che andiamo. Billy! Cicomi! E beh Billy! E beh, prodigio! Sì! E allora? Tutto a posto, sì! E niente in ordine! Arrivato, sono andato a farmi un giro a Porto Torre, se non vengo un'altra. E capita, no. Io ho preso il pullo per i carrozzi e niente, sono pronto a casa. Andare, no, ho fatto un giro, stavo anche più vicinando lì. Addirittura. No, domani devo finire per forza, ma non è perché allora devo accompagnare con lì all'ospedale, capito? E tanto mi devi collegare solo col filo là. E nulla, devo portare il dio dentro la stanzetta mia. Cazzo, mi incubo. E la padania è facile farlo, quello fa in fretta. Tanto quello in cucina è già fatto, quindi è posto. Il manca adesso è quello, il neutro, portare solo il neutro dentro, e buh. È un incubo, Tonino. Troppe mani ce l'ho messo, che è un casino. Io domani quando metto la canaletta al soffitto mi sistemo tutto quanto i fili che sono dentro lì e comincio già a coprire, così fatto ci saluto il nero dentro e basta. Vabbè, avanti fatto per tanti giri. E allora? Ma comunque è un'altra cosa, dai. Un'altra cosa sì, certo. Da come dire prima. No, un'altra cosa, cazzo, tu fili volanti, ma io. No, perché mi sciugne l'occhio. Sì, stanno facendo avvio di che porco. Quello già lo so. Nessuno, ma stanno ascoltando però. Cappa di Rogero. Vieni avanti, voglio dare segnale tua. Ah? Con questo baracchino per il Santiago 9. 9? Cappa. Andare, con l'altro. Al locale chiuso, Santiago 5. Ma quell'altro quando me lo dai? Cazzo, mi stai facendo usare questo cazzo di macchina a fare un accidente. Io con quell'altro che devo e ti ascolti con l'altro in cuffia, non avevi dubbi. Ehi, è feo, cara. Uguale, è feo, cosa fa? È uguale a quello lì. Uguale, non è. Vabbè, comunque, come cose sono uguali, non è che cambia stare. Certo, ma se qua c'è il soldo da mangiare il pane, lo alimentatore, è stato alimentato pure. Domani passo 2:30 di bevi? 2-3 litri, 2 litri dai. E non ti prendi quale dappa già ne essere, franco, vuoi tu? No, che la mica la compagnia mia già lo pizzi il suo vino e gli piace. E allora ti prendi 2 bottiglie da 2 litri? No, troppo, una bottiglia a 2 litri va bene, dai. E una, 2 litri, sta tanto già ce l'ha le bottiglie vuote. Ecco. Sì, buono, ho assaggiato quel vino, buono veramente, non me lo aspettavo che era così. Ed è qui che ti dice durante i dozzi. Vedi che tuo figlio non è prende il siriaca. Già lo so, Manuela, che tuo figlio è bambuona. Cazzo, siriaca non li dico io. Specialmente nei vini caccaoni, mai visto. Mamma mia, chi l'ha mai bevuto? Cosa volevo dirti? Ora cade il cavallo, esso quanto era tenera, proprio si sugli e mocca. L'ho presa da Carigiù, lì sai dove c'era il Balsanna? E me quello un po' più giù. Quello lì, va a prendere la carne che è buona. Allora che lo gioco, non è chi va a pigliarlo. Tenera, tenera, hai visto? È una buona veramente, eh. Ma cosa vede, carne inquina quello? Non ho capito. Solo carne cavallo vedo, tutto. Tutto vendi, agnello, porcetto, tutto vendi, sezioni, tutto in voi. No, perché prima, anni fa, c'era soltanto la carne equina, solo la carne cavallo, capito? Allora invece vendono in tutto. No, se tu vai lì, quello che ti serve sta, agnello, porcetto, carne che fa, ruolaccia, c'ha tirini, di tutto sta, ali di pollo, quello che ti serve sta, pancetta è buona, un senso. Sì, l'agnello già ce l'ho io, che ho già metà, ne ho preso, ce l'ho in freezer. Cosa volevo dirti? E quella carne cavalla quanto è il chilo? Adesso non ce l'ho, ho fatto una razza, non lo so, dove guarda lo scontrino, io adesso non ce l'ho qua. Dove guarda lo scontrino, non ce l'ho qui adesso. Però non è cara, Non è cara quanti a 12? Anche la madre sia 15 a 16. Mi la roba buona la paghi, di più roba di plastica ti la voglio ripagare di mano. C'è roba di plastica, poi anche ormai ti la tribù mica anche di plastica però un po'. Parca d'Italia. Niente, mi sono fatto il freezer pieno di nuovo. Adesso per Natale c'ho tutto. Lì se lo passa con me Natale e ci divertiamo, dai. E poi torna lì, torna là. No, io Natale sto lavorando, Natale sta lavorando, come te sei. È meglio che ci sia perché alla fine mese c'è la giurù, l'assicurazione e via dicendo. Mi ha evitato che cosa noi quell'altra a Natale dove sei? A casa non seguono i tuoi nonni anzi no, però gli ho detto sì sono con i miei però di lì altro, capito? Già mi hai capito? Noi sono con l'altra a Natale qua. Cazzo, questa è di un baghino là. Cosa? È di un baghino. No, non ci viene, no, tranquillo. Io ho quella lì qua, ci viene 2 giorni di ferie e torna lì e torna là. Ma tu vai. Però quella macchina ha portato a sistemare, non circolare così, perché cazzo la scatola guida non si va a scherzare. A parte solo la scatola guida, il giusto, tutti e due. Me lo ordine a buonanotte tanto, ma non è. Gira che ti gira. Quindi capisci a me, Manuel, e quindi tu pensi che lui lo sa, ma... Ha 18 euro anch'io, sono la cane in cavallo. La madonna, vedi, ha 18 euro anch'io. Capita, è un bel mio. Tre pettine, quella là, 10 euro, tre pettine in cane in cavallo. Però era un'opera grande. Quanto ero? 6 fettine? 3 fettine 10 euro. tre fettine. Ehi, mancate, erano grandi però. Cazzo, ma tre fettine di zero sono belli grandi, zero e spicciola fettina, capo. A 18, insomma. Non puoi sbagliare, a 18. Se le compra lì a me va bene, io gli dico che le cavalli ti piace, sì, dammi di là e la compareccio, dammi 20 euro e mangi il burro. Fai lì che è buono, adesso lo fai, dopo per la strada, sì, lì, c'è di tutto già. Sì, già lo conosco quello lì, io abbassando molte volte trovo i miei colleghi, ci prendiamo caffè, capito, io già lo conosco quel padre, è un parmaceria. E caminuccio, ti stavo dicendo, capisci a me, Manuè, quindi pensi che quella persona sa tutto quanto? Io ho tutto presente, quel presentimento lì, sì, mi sembra strano che, non, che qualcosa lo dica non mi sia andata, se lo sai che la voce è piccola. Ma chi ti ha detto? Sono una persona, lo sai, solo una e tu. Sai, la voce corre. E si è nuova Sardegna. Vabbè, io non ho nessun problema, ha capito. Quindi, non è che io prendo con la pistola e vieni qua, no, quindi, quando hanno desiderio di venire con me, gli dà la calzona, vuol dire che piaccio. C'è la picchieriola grande. Beh. io. Domani se devi fare, ma dov'è? Domani sono a casa. Perché? No, così, se volevi venire a trovarmi. Se mi porti quella roba, porti pure. A te, arriccato, eh. Ma me la porti? E poi il 20 già lo sai, settimana prossima ti do i soldi, già lo sai, 20 di me. Domani me la metti in macchina, dai, così mi dai una mano. Domani faccio. Ma non chiedo parole. No, alle 7. Alle 10, 10 e mezza sono lì, dai. 10 e mezza massima, non di più. 5 e mezza mattino, va bene? Alle 6 del mattino. Alle 10, 10 e mezza sono lì, dai. Che domani mattina faccio la doccia e vengo lì a fare. Va bene. Perché mi dai l'orientamento a mettere la dritta, perché da sopra non è che lo vedi bene quando è dritta, mi Manuè. Beh, da sulla scala non lo vedi, no. Da sotto, da giù lo devi guardare, sì. Lo so, se tu vedi d'altro, io la prima cosa che faccio è mettere la canaletta, nella mobilità. Perché poi asciuga le ho comprimi da sopra la centralina tutto quello che ho comprato. È un casino. Vabbè, tanto devi mettergli quel cavo lì. Quando ci vuoi, mezza giornata glielo finisci. Sì, devo fare il forno per entrare il dietro, capito? Mi interessa entrare il neutro, Manuè. Sto pensando da dove farlo entrare il neutro. Cavolo, c'è l'armadio, porca miseria, che sennò era fatta. E l'armadio si sposta, è indietro il problema. Ehi, si sposta, Manuè. Chissà cosa vedrete la tua. Ah, ma che c'è roba leggera, non c'è roba pesante, non ce n'è roba pesante. E perché volevo... Lì c'è già il quadretto, la centralina, capito? Partivo col neutro, facevo scorrere, facevo uscire lì e boom, basta. Ma il quadretto dov'è? Dietro l'armadio? No, dov'è adesso il quadretto che ho messo io? Da lì parte, sale su la canaletta, il forno dall'altra parte e faccio camminare la canaletta in quella stanza, il neutro. Sì, ma tu hai detto c'è l'armadio, cosa vuoi passare? Il cavo dietro l'armadio? Mi sarebbe andato meglio bucare direttamente sopra. Vabbè, si porta l'armadio, non è un problema. Vabbè. Vabbè, faccio così, dai. Non è tutt'altro. La prima cosa che faccio, buco. A fianco all'armadio già c'è lo spazio, dai. Faccio un foro, faccio entrare il neutro lì. E poi dall'altra parte la canaletta fa fino a scatto di evasione. Già che ci sono, faccio passare fase dentro con la notte. Ma quella presa che c'è, che mi dà casino, quella presa la utilizza lì. Ma qua quale presa? Quella che tu hai detto che non c'è corrente? No, nella stanza centrale, dove era con la scala, dove c'era Palermo che è il casino. Beh sì, quella la usa, c'era l'interruttore lì. No, è solo presa, non c'è l'interruttore di manuale, sì, sì. Ma quale presa? Allora, tu hai aperto la presa che tu hai detto, non c'è corrente qui. Che tu gli hai detto, gli metto un capo qua, tanto non la usa. No, no, quello lì. Dove ho bucato da quella presa, sono uscito in quella camera. Dietro lì, proprio su, c'è la presa, giusto? Quella la usa, quella la usa per accendere la parare pure. Per accendere la parare, ma si insenti, se sono una presa tu. Ma non c'è l'interruttore lì, o no? No, lì. Ah no, l'interruttore è vicino alla porta d'entrata, sì sì, lì c'è una presa, penso che la usa, boh, no, no. Si nota che passare anche lì un tronco, là un casino, Emanuele. No, forse la usa, lì lo devi dire, boh, ma penso che la usa, sì, se deve attaccare qualcosa, sì. Vabbè, la cavalletta che passo qua dentro, facendo anche la fase, e buonanotte, faccio scendere giù e su, eccetera, boh. Tu glielo dici, se non la usa ne metti il tappo, io anche lì, ho usato una fuga, tu chiediglielo, magari non è entrata nel mano. Vabbè, ma devi capire che c'è anche l'altra presa, nell'angolina dove era attaccato quella prolunga, capito? Dove c'è la fase Pio. Scappa. E quella funziona. E penso di sì, ma io lì non ho attaccato niente, mi. Che felice, lui. Domani controllo anche quella, giù compreso. No, lo so, lì c'era il collegato. Sì, quella funzionava, sì. Perché c'aveva il collegato in televisione in cucina. Lì c'era quel filo che mi è tolto. E quella lì ti porta anche la luce della stanzetta di fuori, perché siamo andati con tua zia e c'è la luce, è a posto. La luce dove? Pure nel giardino. Quella casetta in giardino, sì. E tu? Via. Cioè così, sì. E vabbè, tanto tu senti che il Giulio l'hai fatto, dai. A Roma era prima, era già un casetto veramente. Ehi, mica tu ne butti. Allora ti tieni la residenza qua. Questa è la residenza a cane che ti fa. No, che domani devo accompagnare anche perché io voglio uscire anche prima e voglio finire presto perché devo andare là, capito? Io già mezz'ora quarto devo già partire da Canica, per forza. Quindi mi devo arrasciare. E vabbè, anche la del posto era questa, mezzogiorno e mezza luna. No, io devo essere l'una meno un quarto a casa sua, l'una meno un quarto l'appuntamento sarà alle due all'ospedale, ci vuole mezz'ora per arrivare all'ospedale. Arriviamo sempre l'una e mezzo, 2 meno 25, meno 20. E già che non puoi correre con la macchina, così? No, la macchina mia rimane bloccata a casa sua, in campagna sua. Io prendo la macchina sua nuova, capito? Ah, io pensavo di andare con la macchina tua. No, e il cazzo, allora mi hanno dato 50 euro, E per quello che ti ho detto, cazzo 25 euro, e fai poco 25 euro. No, 25 sono per la benzina da casa mia a casa sua e poi me ne devo salire e boh, il resto è tutto con la macchina sua. Così è. E si la tua accompagnata, vai, oggi sei con te. No, qui rimane. Abito la mia, vive qua. Ah, allora c'è la compagnia, meno male. E da. C'è da un anno che sta qui. Ma lì non c'è una casa sopra. Via Prati, sì. C'è anche quella. Sì, c'è il figlio lì. Ho capito. Andà bene. Di lusso, mezzo di tempo, rosso. Io non so se con Riccardo già abuso, lo sacco, ma non è. E che cazzo, se sei sacco, può cazzo, sai, fili di cazzo. A giocare, manco e mangia, mi sono mangiato un cacco, sai chi si chiama il bianco? Cazzo, mi sei burricato di coca, ma con cacco mera, tu. Ma poi mi so che bella ebbrezza dell'ore. Mamma mia, da poi sei uscito da fuori, cazzo, tutta la gente è entrato un viaggio. dai, quello è il profumo brutto. Che profumo, Mamma mia, tu non mi come si tratta, siete nei capelli sui rifugini? Ma tu Mario, ma la vuoi ancora aperto io? Sì, l'ho aperto. Papparino. Ehi, vabbè dai. Sbadiglio che so, sei deciso, che presto. Questo sì, e questo sì. Oh, poi può passare di tutti, tagliatevi. Il cacchio di rame, quando la torcidia ci ho messo un piede, raga. Ah, e cazzo, siete buoni a tirare con le dita. O se no con l'accendino, ma si attacca al dito, ui. Cazzo di me. Se non sfila con la forbice, sono secchi, ho un casino, sono semifiammati essi. Non c'è nessuno qui, non c'è nessuno qui. Tutti muti sono. Tutti con le orecchie pelose sono. Allora, a c'è in bocca bisogna occhi. Tutti con le tutti pelosi sono. Ehi, non lo so, io che gusto ci prenderemo ad ascoltare. Ma la macchina c'è in camera, ce l'hai. Capa. Che non te la metti in cucina? Perché non ci arriva il capo, dovrei fare un foro. Dalla finestra fai passare dall'entrata della porta. E la porta non chiude più. No, non chiude più. E no, devo fare un buco da fuori a dentro per passare il cavo, così la porta la posso chiudere. Non c'è la finestra. No. Solo la porta, doppia porta. Il ferro è l'altra vetrata, è il ferro stesso. Sì, dottore, ma c'è la finestra? C'è una finestra in cucina. E là, a fianco al cornutone. E io me lo vuoi fatta lo sai. No, che sono in casa sua, diverso. Insomma, noi non c'entro più là io. Beh, lo sapete che ha fatto un attimo a fare il capolì. Forse non hai capito. Là è proprietà sua, già quella che tocca il condizionatore, gli dà fastidio sto pezzo di merda. Che cazzo. E allora? Condizionatori sul contratto, me ne ha messo uno solo perché il cognato di indotto non l'ha capito. Già lì c'è un panettone che l'ha già fatto, così impara. A me mi ha serrato un bracone e mi ha bloccato un condizionatore. A lui invece ne buttano tutto giù in terra 20.000 euro di multa, se ne conviene. Quindi una pacca a mezzo mi devi dare. Peggio peggio. Ui. Io potrei fare una cosa io, bucare a fianco, da c'è un buco che va a finire dentro me. Vado a mettere il baracchino dentro, e dovrei piazzare l'arrigo pure, così c'ho due antenne. Sì, perché in effetti non voglio staccare e attaccare l'antenna all'ascia. Dovrei mettere un tiro, un barilotto, no, è un casino, no. Ah, lascia bene, che non ne vale la pena, ho già accesso un'altra antenna. Cazzo, vedi in su e ti muovo una canta in una buca. No, rimango così, dai. Lo accendo qualche volta, ho tre camere, mi metto sul letto, mi appoggio e basta. E così la già papà della televisione. Non ne vale più la pena, non serve a me, te l'ho detto. Dove ce l'ho io, già lo sai. Ce ne vuole uno come stavo prima io, che ho dato a te, uno così a due pizzi, senza alimentare e senza molto. Un attendino, te lo puri, puoi faccia avanti. Se mi sento le bene, se non mi sento la pazienza. Ma io ho questo alimentatore che... Allora, te lo diciamo, è la voglia che lo mantiene. Ma quello che ho trovato io, ma tu sto insieme al Kevut. Oh, 100 euro, ma non è. 100 euro. Che cazzo ti paga già, 60 centesimo. Lugo, cazzo 100 euro, dai lo pollo. Ma c'è l'IVA, trasporto, ICE, tutto. Allora, siccome questo cercava anche un alimentatore buono per azionare il Kevut, io ce l'ho, però mi devi dare 100. Quindi lui mi ha dato allora 500, 100, 600, 680 in tutto, 680 più, mi ha dato altre 30 euro di benzina perché gliel'ho portato a Olbia. Ah, no, questo discorso, gliel'ho portato a Olbia, e allora va questo discorso. Ma tu come se ne aveva benzina. Sì, vabbè, però gli ha portato già a casa sua. A casa sua? No, a Olbia, lui lavora a Olbia. Lui è di coso, è di Budoni. Cazzo, da Budoni è andato a Olbia. Lui lavora a Olbia, purtroppo sì. Cazzo. Oh, guarda che è vicino da Olbia, non è tanto lontano. E perché mio figlio l'ha metà posata, abbiamo altri di Budoni. E lavora a Olbia però. Iva. E Iva lavora a Olbia. Cazzo. Perché si è preso la macchina un po' più nuova, per quel motivo. Questa Clio ce l'aveva lui, è stata a metro quanto. Una da a metro si è preso un'altra macchina. Infatti un altro passaggio ho fatto perché c'era il nome mio. E se fa dove va pure un passaggio? No, io passaggio non l'ho fatto, tranquillo Manuel, perché era già il nome mio, capito? E l'altra è già se fa nome tuo. No! Se ha fatto il passaggio è nome suo adesso. Ah, anche se no già ci si sta in casa in Abu. Scappa, tranquillo Manuel. Ui, ui, ui. Aspetta, adesso meno 7, meno 4 che c'è caduta libera con giri scotti, ma non guardo. Caduta libera, che tu è? Canale 5, giri scotti, caduta libera. Non la guardo mai. Vabbè, io mi sdraio dopo. Perché qui si può ricavare Monica, questa parte del suo baracchino. Io mi guardo caduta mobile a fa un po'. Mentre invece quando lo corica Monica, corica l'altra qua, capito? Sempre vicino al baracchino. Oh. Scappa. Sei qua che tu sei tu. Ora va con la live. E io mi vengo in mezzo. Oh. Certo. Vabbè. Attenzione 10, c'è qualcuno? Questo poi c'è un karaoke. Boh, entro io ci devo andare in tutti, poi ci lamentano e che non veni su. Non lo sanno, io c'ho quest'ora, perché prima devo fare altro. Beh, metti proprio una fuccia, va bene? Sono ascolto già che sto facendo questa roba qua che ti ho detto prima. Vabbè, purtroppo. Non c'è nessuno, anche non se n'è andato. No, non l'ho sentito più. Speriamo che mi giù. Forse non è che se ne sono andati. Vabbè, ma non li torno a cantare, come mi rovi me. Allora, dispetto non te lo fanno. No. Io non è per rispetto, loro magari non mi sono c'è nessuno, ci sono andati e hanno ragione anche loro. Ciao Magalo. Chi è? Hola? Chiamando chi è che sta chiamando? Aspetta un attimo che se no non vorrei dare aspetto, c'era Gianni prima. KK. Andi. Dentro un vedaio. Chi è Gianni? Sgredato vai a Gianni. Ma lui è andato prima di me, capito? È andato prima di me, ecco perché non ci siamo trovati. Allora, cioè, tanto come andiamo a lutto, quando arrivi, paga divi. Prima invece quando mettono i cosi, le agevolazioni, devi andare presso, capito? Scappa, abbassa un pochettino la modulazione perché stai strappando, sai. Va bene così? Perfetto, una meraviglia. Gianni, ci sei, Gianni, ha detto che tornava a cantare, non lo so. Gianni. Cappa cappa. Ah, la cappa è una Bartolina, cazzo. Luca. Dimmi tu. Aggiunto, una Bartolina bisogna cantare. Oh, che sa parecchio mondo, eh. Una Bartolina. Una Bartolina bisogna cantare. Ah. Gianni, che stanno dicendo? Ma non lo so. La parecchia è muta, però noi comunichiamo lo stesso, non c'è problema. Sì, ho voglia. Hai voglia. Porca gatta. Oh, mia, mamma mia, cazzo. Quindi la questione che ti ho detto è quella là. Adesso non mi vado in patata, mi fa sapere in radio che cosa, però è un casino niente. Ma non te la devi prendere a cuore perché poi è peggio, capito? Infatti intanto io cerco di difendermi, di fare il mio dovere, di difendermi e di saperne anche di tutto. Beh, l'hai visto un po' come... Cioè, io ti mando il coso, guarda. Ti mando che c'è... Sono anche un pochino arrugginito, guardate come ho sbagliato. Sono un pochino arrugginito. Ma chi, siccome ne ho fatto talmente tanti, che me li sono messo in testa, a chi ti dice bisogna fare, cioè, proprio... Ah, ma che cosa? Intanto te lo torno a ridare, ma cosa si... lui... Ma quella ti credi che è finita così? Vai, pisciabotti, vai. Qui te l'ho mandato lui. Luca, Luca, ci sei? Sei anche tu. Allora, la porta. Ah, ok. Gappa, gappa.